Anni fa avevo un podcast, si chiamava Roboto, adesso non c'è più. Ma visto che persino gli Anonymous sono tornati, perché non tornare con il podcast? Sigla! In questi giorni abbiamo assistito alle violenze, delle proteste dei cittadini afroamericani, ma anche bianchi, negli Stati Uniti, a seguito dell'uccisione del cittadino afroamericano George Floyd. Nella città di Minneapolis, durante una conferenza stampa, il sindaco ha annunciato che stavano avviando delle attività di contact tracing per risalire ai contatti vicini delle persone che erano state arrestate. È ovviamente esploso il pandemonio. In questi mesi di pandemia ci siamo dovuti confrontare con questo nuovo termine, contact tracing, il tracciamento dei contatti, un termine che viene dal mondo sanitario. Infatti, per contact tracing si intende tutta quella procedura di indagine per ricostruire la catena dei contatti di una persona che è risultata positiva al test per individuare un virus. In questo periodo si tratta del coronavirus, ma dobbiamo ricordare che è una pratica comune, descritta persino chiaramente dall'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità. E quindi in questi mesi c'è stato un grandissimo dibattito da una parte, come la tecnologia può facilitare il contact tracing e quindi appunto l'introduzione di applicazioni per il tracciamento dei contatti. E sappiamo che in Italia è stata introdotta proprio un paio di giorni fa l'app Immuni, che dovrebbe facilitare questo tracciamento dei contatti. D'altra parte, il tracciamento dei contatti vero e proprio viene fatto anche in maniera analogica, ossia dagli operatori sanitari che intervistano la persona che è risultata positiva al test e chiedendo a lei di ricostruire i luoghi in cui è stata, le persone con cui è stata a contatto, in modo da poterle contattare a loro volta e chiedere se hanno sviluppato dei sintomi o se possono farsi controllare e ricevere un tampone. Cosa è successo però quando il sindaco di Minneapolis ha affermato che stanno attivando delle procedure simili a quelle del contact tracing utilizzato contro il Covid, che anche giustamente molte persone e giornalisti hanno confuso le due cose. Quindi la prima reazione è stata quella di dire: ecco, vedete, le applicazioni per il contact tracing per il Covid-19 sono state subito trasformate e riutilizzate a scopi di sorveglianza nei confronti dei cittadini che stanno giustamente protestando nelle strade degli Stati Uniti d'America. In realtà questo non è vero, in realtà questo è anche controproducente perché molti dottori e operatori sanitari hanno sottolineato come questo tipo di comunicazione non fa altro che ridurre la fiducia nei confronti di uno strumento, di un'attività, quella del tracciamento dei contatti di un contagiato, che è fondamentale in una situazione, di un'epidemia dilagante come quella che stiamo vivendo. A cosa si stava riferendo in realtà il sindaco di Minneapolis? Sostanzialmente è una procedura che viene svolta normalmente dalle forze dell'ordine, lo ricorda persino l'Electronic Frontier Foundation, un'associazione che si occupa dei diritti digitali da anni, un'associazione statunitense, che ha dovuto scrivere un post al riguardo, sottolineando come questo tipo di confusione non fa altro che peggiorare la situazione. Le attività di indagini vengono svolte da anni in questo modo da parte delle forze dell'ordine. In Italia sappiamo benissimo che c'è un listino prezzi che permette di richiedere agli operatori telefonici il tabulato delle telefonate che ha svolto un soggetto indagato. E quindi ecco, già quella è una forma di raccolta di contatti, creare una sorta di grafo dei nodi di conoscenze, no? I famosi 6 gradi di separazione che ci separano da chiunque sulla faccia della Terra. Ecco, alcuni giorni fa era uscito un articolo su Wired, un estratto dal libro del giornalista che aveva ricevuto parte dei documenti del leak di Edward Snowden, in cui sottolineava come negli Stati Uniti l'NSA stava effettivamente mettendo in piedi una sorta di strumento per il contact chain, ovvero raccogliere la quantità più gigantesca possibile di metadati sulle chiamate telefoniche per mettere appunto esattamente una sorta di grafo gigantesco dei cittadini statunitensi per capire chi è in contatto con chi. Ricostruire così la catena dei contatti, la sfera, la comunità, entrando così direttamente nella comunità, riuscendo ad attribuire un nome alle persone con cui l'indagato o anche il sospetto sta in contatto. Questo vuol dire quindi che i timori di un utilizzo scorretto delle applicazioni per il contact tracing riferito al Covid-19 sono infondati? Assolutamente no. Quei timori sono assolutamente necessari, anche perché questo tipo di contact tracing dobbiamo ricordare che non fa altro che normalizzare, rendere un aspetto quotidiano, quello di sorvegliarci a vicenda. Infatti dobbiamo concepire le applicazioni per il contact tracing del Covid-19 come una sorta di strumento di sorveglianza fra cittadini, ovvero ogni singolo cittadino traccia e sorveglia le persone che incontra. La sorveglianza non è più quindi da parte delle forze dell'ordine, quindi rivolta dall'alto verso il basso, ma diventa una sorveglianza orizzontale, una sorveglianza in cui qualunque persona diventa un nodo sorvegliante, qualunque persona attivamente fornisce dei dati che raccoglie grazie al suo smartphone che invia questi segnali Bluetooth per capire con chi è stato in contatto, e rischia così di creare una nuova infrastruttura di sorveglianza mai vista prima. Questo tipo di sorveglianza tra pari è una sorveglianza che abbiamo già introiettato noi stessi per quanto riguarda per esempio l'attività fisica. Se noi ci pensiamo, le applicazioni per la salute, le applicazioni per la corsa, le applicazioni per la palestra sono applicazioni che non fanno altro che misurarci, costringerci a sorvegliarci da vicino, costringerci a raccogliere dati il quanto più possibile puntuali, anche se su questo qui si aprirebbero delle discussioni enormi. Infatti i sensori non sempre sono corretti. E quindi da questo punto di vista ci ritroviamo di nuovo con una sorveglianza che penetra ancora di più nella carne e trasforma chiunque, anche chi è in buona fede, perché effettivamente ritiene che sia opportuno sfruttare questa applicazione per il contact tracing per cercare di limitare la pandemia, si ritrova inconsciamente a diventare un aiutante del sistema di sorveglianza.